la testa, bounce con la testa, bounce con la testa, bounce con la testa, yeah, yeah. Sonny, Sonny, chiudi gli occhi e ritorni, spara one four, yeah. Sistema la testa, ok. E non si resta altro che sorridere, e non ti da parlare, sound system, ok. Vai, Sonny, vai. Sono Sonny, una persona tra tante, un mezzo dilettante, mi diletto da cantante. Senza posto fisso, sorrido col maltempo, 2000 domande per un diploma presa a stento. Ma non confondermi con tutte le persone che hanno belle parole fondate di rivoluzione. Io non sono un professore, non sto seduto al seggio. Io sono come te e forse un poco pure peggio. Passo le giornate a sclerare coi miei vicini, tra giornale, amici, giri e un pezzo di Guccini. Ma come ogni italiano non mi sento mai qualcuno, con l'eterna sensazione di una presa per il tu. Che ci vuoi fare se mi sento uno straccio come Cafiero Pasquale? Mi vesto, poi scendo e ne pago io le spese. Ma quanti danni ha fatto questo mio bel paese? E dai, c'è una vita da vivere, chilometri di storia da riscrivere, e l'arroganza di chi ci vuole dividere, non ci resta altro che sorridere. Dai, c'è una vita da vivere, chilometri di storia da riscrivere, e l'arroganza di chi ci vuole dividere, non ci resta altro che un shot e tequila, nuclab e un seradone assurdo. Da ferma polizia, 1000 euro e murde, 10 punta, riparte e saluta nata vota. Ma vinto metra roppa, mo se buca una rota. E allora uscita l'ena candid camera, nessuno che mo porta colazione in camera. La fella canta, suona musica da camera, sorrido allo blow e saluta che canavera. Stomp ne costa per me, stasera se balli, invece lo solito barrio, solito caffè. Ok, hip hop e R&B pare, ma perché sti tipi stanno tutto vestuta carnevale back home e di mano c'è Beckham. Non tengo né a moglie né me le arde becca, ma è pure nato un weekend, era stata garantita. Nu bolle la vezzina, posteggio in coppa Facebook e nu vuoi. E dai, c'è una vita da vivere, chilometri di storia da riscrivere, e l'arroganza di chi ci vuole dividere, non ci resta altro che sorridere. Dai, c'è una vita da vivere, chilometri di storia da riscrivere, e l'arroganza di chi ci vuole dividere, non ci resta altro che Chiamami adesso, chiamami a cambio e mi converto come un paio di all-star. Ma non cambio città, mi riconosci dal cap 69-00, quanto c'entro col rap. Vivo un incubo di non sapere ciò che spendo, carte di credito e più firme di un referendum. Fortuna che lo Stato qui mi azzera il dividendo, 99 zeri ma nient'altro sull'assegno. No, no, non è niente divertente, non ridere, ho troppi dati in testa, non li posso comprimere. Ho musica in testa per non farmi opprimere, sono troppo giovane, non posso convivere. Tre quarti dei miei amici convivono con la crisi, lo vedi dalle rughe che rigano i loro visi. Avevano dei sogni finiti che li hanno uccisi, per questo non gli resta più nient'altro che i sorrisi. E dai, c'è una vita da vivere, chilometri di storia da riscrivere, e l'arroganza di chi ci vuole dividere, non ci resta altro che sorridere. Dai, c'è una vita da vivere, chilometri di storia da riscrivere, e l'arroganza di chi ci vuole dividere, non ci resta altro che